avvicina a me. Puoi distruggere mio panina. È come all'improvviso che mi sento cadere, la vertigine riaffiora, è giunta l'ora. Accompagna la